e all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. Leggo adesso. Sono le 8. Sì, vabbè. Sono le 7:20 minuti, tranquilli, non siete in ritardo di un'ora. Sono io che sono sfasato. Siete perfetti, puntuali nelle vostre macchine, accompagnare i figli a scuola, oppure li avete già lasciati? No, penso di no, oppure state facendo le vostre colazioni interminabili. Tranquilli, tranquilli. Sono le 7:20 minuti, questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo a leggere i giornali, avanti! Che spettacolo, che spettacolo! Giovedì 6 ottobre, siamo qui, le aperture intanto, l'apertura del Sole 24 Ore, bond e borse sotto tiro, si salva Piazza Affari, dunque la tensione sui mercati europei. Per il Messaggero, crescita, il piano in tre mosse, c'è anche l'intervento del ministro Padoan all'evento proprio organizzato dal Messaggero, l'obiettivo realizzabile, dice il PIL, all'1% l'anno prossimo. Poi il referendum che fa litigare con i ricorsi al TAR per il quesito. Repubblica, ricorso al TAR, quesito truffa. Renzi risponde, è la legge. La Stampa, referendum, ora la battaglia è in tribunale. Mentre il Manifesto mette in prima pagina Benigni insieme a Renzi, non ci resta che piangere. Lo schierarsi per il sì di Benigni, che ha detto alle Iene se passa il no è peggio della Brexit. A proposito di Brexit, per il Corriere della Sera l'apertura cambierò la Gran Bretagna è la linea della Premier May, mentre l'Unità, Londra a picco, via gli stranieri, questo è il titolo di prima pagina. Vedremo altre aperture, ma voglio subito andare a leggere alcuni articoli. Oggi voglio cominciare da un articolo un po' particolare, un po' diverso. È una lettura che è affidata alla penna di un giornalista e grande scrittore, Paolo Rumiz, che su Repubblica racconta in un bel reportage, un intenso reportage, a fianco ai volontari del QAM, medici, il loro viaggio dove? In Puglia, l'Africa... Ormai si trova in Italia. Ecco i nuovi medici missionari. È un reportage da Cerignola, in provincia di Foggia. Quando i giovani medici mi dicono «Dottore, voglio lavorare in Africa», rispondo che non occorre andarci. L'Africa è qui. Piove sulle terre sterminate del tavoliere. Enzo Limosano, chirurgo vascolare in pensione, ci guida per una strada infame tra uliveti e campi di carciofi sopra una terra grassa e lustra come groppa di bufala. Destinazione il ghetto chiamato Ghana, uno dei tanti bacini di manodopera sotto costo del baricentro agroalimentare d'Italia. È la provincia di Foggia, oltre 1 milione di tonnellate l'anno di soli pomodori. Il camper è l'unico ambulatorio possibile in questo pantano. Michele Alberga, 68 anni, il dentista, porta alla cintura un diffusore sottocutaneo di insulina. Ma nonostante l'età, il diabete spende il tempo libero a curare migranti con animo lieto, senza ipocrisie pietistiche o assistenzialismi. Gli chiedo se non gli venga mai il dubbio con la sua dedizione di essere funzionale a un sistema di sfruttamento. La sua risposta netta, loro ci aspettano. È la stessa che mi veniva data in Uganda e in Sudan, negli ospedali del QAM. Se non lo fai tu, ti dicono chi altro. Non ci si può tirare indietro se ci si vuol guardare allo specchio a giornata finita. E loro ci aspettano davvero in fondo allo stradone, tanti. Anche se il ghetto è mezzo vuoto perché le avanguardie sono già partite per gli aranceti della Calabria a farsi sfruttare in modo ancora più bestiale dall'andrangheta. Ogni settore ha le sue patologie, dietro ai pomodori, sciatiche e lombalgie, dietro all'uva, emicranie e dolori al collo. Gli agrumi si pagano con spalle indolenzite, le coltivazioni in serra con disidratazioni gravi, i carciofi con infiammazione al gomito simile a quelle del tennista. Il tutto senza contare gli incidenti gravi, le malattie sommerse, quelle della miseria, l'AIDS, la tubercolosi, la meningite, la sifilide, l'epatite. Solo i più forti ce la fanno a tornare a casa. È uno stralcio di questo, a mio modo di vedere, straordinario reportage di Paolo Rumiz. Siamo su Repubblica, pagina 1 e poi continua 16 e 17, davvero ve lo segnalo. Al seguito dei medici del QAM che in genere operano in Africa, questa volta raccontano l'Africa è già in Italia, nelle zone, nei ghetti dove vivono coloro che sono poi spesso sfruttati per raccogliere i prodotti che comodamente ci ritroviamo sulle nostre tavole, cari italiani. Leggetelo su Repubblica. Mentre salto alla pagina di apertura di Avvenire, Avvenire mette in prima pagina quella polemica che abbiamo sentito nel giornale radio, c'è per la vicenda della nazionale, che per carità tutti tiferemo questa sera contro la Spagna nella qualificazione mondiale, ma che ha fatto questa scelta, almeno a livello di federazione. Il titolo di prima pagina d'Avvenire: azzardo nazionale, la società di scommesse Intralot, premium sponsor delle rappresentative italiane, anche delle squadre minorenni. E Avvenire fa una dura polemica. Avvenire da sempre si batte contro il gioco d'azzardo legalizzato. Scommessa persa in nazionale, lo sponsor Intralotto sulle maglie azzurre. È una scelta da respingere, dicono alcuni senatori. È una scelta squallida, dice Filippo Torrigiani, in una dichiarazione ad Avvenire, coordinatore del gruppo di lavoro sull'azzardo di avviso pubblico e consulente dell'antimafia. Insomma, Antonio Maria Mira racconta a pagina 5 di Avvenire: la società civile insorge contro la decisione della Federcalcio di legare i colori della squadra guidata da Ventura a un marchio discusso del gioco cosiddetto responsabile. C'è anche un'intervista a Damiano Tommasi, che è il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che dice: guardi, io quello che posso dire è che sono reduce da un convegno sul gioco d'azzardo. Il 12 ottobre presenzerò a Bari un altro incontro per discutere di usura e scommesse. È chiaro che sono preoccupato come genitore, perché sappiamo bene a quale pubblico si rivolgono le agenzie, il pubblico dei nativi digitali, e come presidente dei calciatori devo informarmi e capire bene la questione. Sinceramente nel Consiglio federale non si era parlato di questa opportunità. L'unica cosa che posso dire al momento è che la federazione, per ragioni di opportunità, poteva evitarlo. Insomma, polemica servita su questa vicenda della nazionale. Ma vi voglio anche regalare due notizie di scuola. La prima è questa: state portando i vostri bambini anche all'asilo. State attenti, cari genitori. No, non vi voglio terrorizzare, se sono andate tranquilli, ma se siete a San Vendemiano in provincia di Treviso, c'è un asilo comunale con tanto di delibera in consiglio comunale che prevede questo: andate a ritirare i bambini in ritardo, 5 minuti, il semaforo rosso, la stringa che non si slacciava, multa, multa da 10 a 40 euro. 10 euro se il vostro ritardo è fino a 29 minuti, dal 30° minuto scatta una multa di 40 euro. Lo racconta Il Giornale: bimbi come pacchi postali, arriva la multa antiritardo. In un nido a San Vendemiano, in provincia di Treviso, sanzioni per i genitori che lasciano i figli troppo a lungo. Oppure anche per quelli che li portano in anticipo, quelli che ho un appuntamento di lavoro, te lo lascio 10 minuti prima, pagare. Così fanno a San Vendemiano, come racconta Serenella Bettin a pagina 19 del Giornale. Quest'altra notizia di scuola invece è la notizia che davvero mi fa incazzare come una bestia e che vince oggi il premio Mani sul volante per tenerle ben strette senza prenderlo a pugni. È il titolo peraltro di prima pagina del Giorno: scuola vietata ai disabili. Succede a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove c'è un gran classico di inizio anno: il preside che fa fatica a reperire degli insegnanti per coprire le cattedre. Gli insegnanti arrivano, in questo caso sono del sud, appena prendono possesso della cattedra si mettono in aspettativa, si mettono chi in malattia, insomma firmano il contratto triennale e poi se ne tornano nelle loro abitazioni, Sicilia, Calabria, Campania, aspettativa o malattia, con la speranza di ottenere un incarico in deroga vicino a casa. E fin qui è un problema diffuso nelle varie scuole. Risultato, eccolo qua: il preside: mancano gli insegnanti di sostegno, gli alunni disabili stiano a casa. Scelta shock all'Istituto Bolognese Salvemini, da sempre modello di integrazione. I genitori arrabbiati, i ragazzi si destabilizzano e chi lavora come fa? Si cercano 30 supplenti. Il preside dice: questa è la situazione, purtroppo. Carlo Braga chiede alle famiglie di concordare giorni e orari nei quali i ragazzi disabili possono stare a casa. Capito? Cioè una scuola pubblica nella situazione di dover concordare con dei genitori che hanno dei ragazzi disabili e dire: guardate, mettiamoci d'accordo, perché la scuola pubblica statale non è in grado di accogliere i vostri figli. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Per me la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca. Eccolo qua, 92 minuti di applausi, mitico. Allora, cari ascoltatori, tra l'altro voglio rinnovare l'invito: se ci ascoltate dall'estero, scriveteci una mail, come stanno scrivendo in tanti, 24mattino@radio24.it, perché alle 6:50 più o meno, ogni giorno più o meno, anche questo, chiamiamo uno di voi in onda. Allora, il referendum, dicevo prima, se c'è una immagine plastica dei litigi, della litigiosità italiana, ecco, che io la dovessi trasferire a qualcuno che viene dall'estero, è proprio questa, direi. C'è un referendum e ci sono dei ricorsi al TAR per il quesito del referendum. Ebbene sì, vediamo anche questa in questa campagna elettorale asfissiante che finalmente il 4 dicembre, almeno il 3 dicembre, finalmente almeno finirà. Questa è l'unica grandissima buona notizia di questo referendum. Referendum ricorso contro il quesito, il Colle dice la Cassazione lo ha approvato. Che succede? Succede che due partiti, il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, ma anche un avvocato, o meglio due avvocati, Enzo Palumbo e Giuseppe Bozzi, già impegnati a difendere le tesi dell'incostituzionalità dell'Italicum, hanno fatto ricorso perché dicono quel quesito del referendum è ingannevole, spinge troppo al sì. Finisce per tradursi una sorta di spot pubblicitario a favore del governo. E dunque ricorso al TAR. Renzi si difende dicendo: ma quale genio del marketing ha ideato questo quesito? Il quesito è quello che la legge prevede per la riforma costituzionale, è il quesito approvato in Parlamento. E su questo quesito sono state raccolte le firme sia dei sostenitori del sì che dei sostenitori del no. E poi fanno notare è stato valutato e accolto dalla Corte di Cassazione. Infatti parla il Corriere della Sera il giudice Nappi. Chi è il giudice Nappi? È il consigliere Aniello Nappi, uno dei 16 giudici dell'ufficio della Cassazione che ad agosto ha confermato la legittimità delle 500.000 firme raccolte dal comitato del sì e ha validato questo quesito. Allora, giudice Nappi, vi siete posti il problema del quesito semplificato che verrà stampato sulla scheda? Certo, ne abbiamo parlato, abbiamo deciso di procedere come sempre. Quel titolo che troverete sulla scheda lo ha fatto il legislatore. Se non piaceva potevano pensarci prima, potevano emendarlo, non spettava a noi giudici farlo. E poi sia con la legge di revisione sia con quella costituzionale il quesito è lo stesso, deve descrivere l'oggetto del testo. Qui c'è anche una diatriba di legge, perché secondo alcuni la Corte di Cassazione, per quel che riguarda i referendum di rango costituzionale, deve riproporre il titolo della legge. Se invece sono referendum, come in questo caso, di revisione costituzionale, vale un altro articolo di legge che prevede l'elencazione degli articoli che vengono modificati e il loro ambito di disciplina. Al solito vi è venuta la nevralgia. Tranquilli, tranquilli, siete voi quelli normali se vi è venuta una nevralgia. Viene intervistato da Repubblica anche l'avvocato Enzo Palumbo, cioè uno dei ricorrenti, che dice: era l'unica via giusta ricorrere al TAR, il nostro è uno stato di diritto, i comportamenti delle istituzioni sono regolati dalla legge. Perché voi avete tirato in ballo anche il Quirinale, Un avvocato mette sempre nel conto di poter perdere, ma c'è un proverbio veneto che recita: fa bisogno per intraprender liti, aver ragion, saverla espor, trovar chi la intenda, chi la voglia dar e debitor che possa pagare. E quindi? Voglio semplicemente dire che la legge c'è, è chiara, e si tratta solo di applicarla. E io confido che il giudice investito della questione lo farà. Vabbè, questo i ricorrenti. Repubblica racconta, pagina 7, che la decisione sarà in tempi brevi e c'è la strada in salita per questo ricorso. Forse lo si capirà già oggi alle 12, scrive Liana Milella su Repubblica, dal primo confronto che ci sarà davanti alla giustizia amministrativa, la quale di fronte a una partita come quella che propongono i ricorrenti potrebbe anche dichiararsi subito non competente, perché la strada giusta per contestare il quesito non dovrebbe essere quella del TAR, bensì la Corte di Cassazione, la quale avrebbe potuto decidere poi di rivolgersi alla Corte Costituzionale. Quindi forse hanno sbagliato anche strada, il TAR non è competente. Staremo a vedere, come le polemiche su Benigni. Benigni che dice sì, Benigni che dice se votate no è peggio della Brexit. Le polemiche su Benigni, vabbè. E Renzi racconta La Stampa, ieri era a Treviso e si sente accerchiato. Contro di noi solo bugie, questa è la linea con i suoi del Presidente del Consiglio. Saranno due mesi duri. A un certo punto si lascia sfuggire anche una battuta: non lasciatemi solo perché da solo non ce la faccio. Una battuta probabilmente con intento empatico per motivare la platea amica, ma comunque parole che mai il capo del governo avrebbe pronunciato nella stagione del consenso. Racconta Fabio Martini a pagina 3, sente un po' di vuoto attorno Renzi. E allora che fa? E allora dove va? Dove si prepara ad andare? Signore e signori, da Barbara D'Urso, ovviamente. Il Fatto Quotidiano racconta che nella strategia di informazione c'è anche questo: Renzi punta sulla D'Urso. E il sottotitolo è anche Politics è sempre un flop, invece, il programma di Semprini, questo bocciato dagli ascoltatori. Carlo Tecce racconta, pagina 4, il fatto che Renzi sa che la platea di Barbara D'Urso, la platea di quelle, come dire, facili dal punto di vista comunicativo, semplici, e quindi prepara con certosina attenzione il prossimo e scontato ritorno negli studi di Mediaset. Forse fra una domenica oppure fra un mese, ancora non è definito, ma certo si riaccomoderà da Barbara D'Urso. Tra l'altro, a proposito di questo, sapete che i rumors raccontano, anche ieri sempre il Fatto Quotidiano, di un possibile accordo in realtà o patto di non belligeranza tra lo stesso Renzi e Berlusconi sulla questione del referendum. Oggi il Messaggero va oltre, racconta che ci sarebbe un vero e proprio patto. Lo fa Gian Piero Timossi a pagina 6, è un retroscena che racconta questo: il patto governo Berlusconi che spaventa il fronte del no. Sarebbe un nuovo accordo già disegnato. Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del PD, stringe i tempi per la campagna referendaria e avrebbe questa proposta da fare. Silvio Berlusconi garantisce la non belligeranza sul referendum e il governo facilita la sua riabilitazione politica. In che modo? Beh, presentando per esempio alla Corte di Strasburgo un parere che di fatto faciliti l'annullamento dell'interdizione dai pubblici uffici dello stesso Berlusconi. Questa è la proposta del governo e questo è ciò che riservatamente, ma con un'insistenza ormai da giorni, alcuni esponenti vicini all'ex Cavaliere dicono. Dal PD ovviamente negano ogni trattativa, racconta il Messaggero, ma ci sarebbe questo tipo di accordo. Ovviamente si parla di rumors, è la politica bellezza, il patto per riabilitare Berlusconi in cambio di una non belligeranza, cioè Berlusconi, come dire, stai pure lì in America, basta che non fai campagna elettorale esplicita per il no, hai già detto che voterai no, ma non dirlo più pubblicamente e noi ti agevoleremo per toglierti l'interdizione dai pubblici uffici. Beh, insomma, caro Mauro Meazza, potremmo anche togliere a te l'interdizione dai pubblici uffici. Che dici? Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Non sapevo di essere come dire, interdetto. Vedo che ti sento un po' interdetto, però. No, sono rimasto un po' interdetto da questa presentazione. Ieri così lusinghiera invece. Carota e bastone. Vabbè. Sic transit, come dicevano gli antichi. Ricordati che oggi c'è in edicola insieme al Sole 24 Ore. Come si legge il Sole 24 Ore? Già gli avverbi abbiamo ripassati ieri. Religiosamente per nuovi tributi, compulsivamente per, sì, finanza, per finanza, compulsivamente, scrupolosamente e soprattutto quotidianamente, ma sì. Insomma, a parte gli scherzi, i termini dell'economia spiegati appunto attraverso il Sole 24 Ore. Ma voglio parlarti ancora del BTP a 50 anni, perché come sai, come ti dicevo ieri, ha avuto un grosso successo. Oggi c'è anche un contributo di bussola, cioè spiegare a chi può servire, a cosa potrebbe servire un BTP di questa durata. Lo trovi a pagina 2 del Sole 24 Ore. Poi oggi è giovedì, giusto? Sì, giusto. È giovedì. Bene. Giovedì, e c'è quindi con il Sole 24 Ore all'interno ci sono le pagine di Casa 24. Il servizio di apertura è dedicato ai monolocali, anche i valori dei monolocali, i prezzi più praticati per le varie città, le grandi città italiane soprattutto. Ieri ti parlavo delle unioni civili, ti ricordi? Ti dicevo che hanno presentato... Volevi farmi una proposta? No, che c'entra? L'hanno presentato dei decreti legislativi per dare stabilità normativa al tutto. Ecco, se ne riparla oggi in Norme Tributi, ma tu lo saprai perché appunto l'hai già letto, e se non l'hai fatto lo farai presto, lo hai già letto religiosamente. Dico bene? Dici benissimo. Poi, sempre su Norme e Tributi, ma nella prima pagina della sezione... Le novità per l'IVA in arrivo con la manovra. Sì. Se non paghi l'IVA, caro, ti scrivono, ti mandano subito un messaggino dicendo: come mai non hai pagato l'IVA? Più o meno sarà questo, no? Il tutto è molto più articolato e molto più serio. Naturalmente, trovi tutti i particolari là dove si dicono cose che qui invece il tacere è bello, dice sempre il poeta. Articolo da meditazione di oggi, anche se ci sono diverse altre cose che ti vorrei segnalare, ma il tempo è tiranno. Rifugiati, per i rifugiati si prospetta l'ipotesi di un utilizzo nel servizio civile. Leggi nelle pagine di commenti e inchieste sul Sole 24 Ore di oggi, meditiamo su queste possibilità di impiego di queste persone. E altro non ti vuol dire. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, come al solito. Traffico! Milan, il cagnas vantaggio dell'informazione! Va bene, cari ascoltatori, le 7:49 minuti, allora vi voglio segnalare, c'è un'intervista all'australiano James Hogan, chi è, 59 anni, è presidente CEO di Etihad Airways, vicepresidente di Alitalia, che al Corriere della Sera, intervistato da Federico Fubini, dice, in sintesi nel titolo, servono tagli per il rilancio e poi il governo mantenga le promesse. Allora, intanto dice Hogan, quando il governo mi chiese di pensarci dissi no tre volte, temevo che le nostre condizioni non venissero rispettate, mi preoccupava il comportamento storico dei sindacati, d'altra parte l'Italia è un grande mercato, dunque abbiamo messo insieme un piano per il pareggio, siamo stati chiari. Una rete forte, più voli intercontinentali, attenzione al traffico interno. Ma francamente, al nostro arrivo, Ryanair aveva il 20% del mercato, ora ha il 50%. Da investitore, dice Hogan, mi delude che alcune precondizioni non siano state rispettate. Soprattutto ci sarebbe stato un decreto per usare meglio l'INATE. Ci hanno detto, il governo avrebbe creato un fondo per rafforzare il turismo in Italia, ma non è successo né nel 2015 né nel 2016. Dunque Hogan si lamenta col governo, ma si lamenta anche coi sindacati. Sono deluso. Quando ho fatto questo accordo sono stato molto chiaro. Avevo bisogno di 3 anni di pace industriale per ricostruire l'azienda. Sono passati appena 18 mesi e in una vertenza per qualcosa che vale come un caffè lanciano uno sciopero. Parla di cosa? Delle facilitazioni di viaggio, cioè i biglietti da 1 o 2 euro ai dipendenti per volare alle basi di partenza? Già, risponde Hogan. Quello che mi preoccupa è che la nostra strategia è far crescere l'azienda, ma se non ho interlocutori responsabili diventa molto difficile. In tutte le compagnie in cui abbiamo investito non abbiamo mai avuto uno sciopero. Qui l'hanno fatto su un benefit che non ha nessuna altra compagnia al mondo. Vabbè, Hogan fa questa intervista, numero uno dell'azionista Etihad. L'Italia è un grande mercato, ma chiede al governo e ai sindacati di stare dalla sua parte. Mentre è stato aperto il testamento di Caprotti, Esselunga, come racconta il Sole 24 Ore, va alla moglie e alla figlia, la seconda moglie, e a Marina, la figlia appunto avuta dal secondo matrimonio. Il CDA nomina presidente il notaio Pier Gaetano Marchetti, sospende la vendita all'estero. Insomma, tutti i dettagli su Esselunga li trovate sul Sole 24 Ore. Mentre la Brexit, ieri si è sparsa questa voce, accidenti, addirittura fanno le liste di proscrizione. Questi inglesi, la perfida Albione, come titola al Fatto Quotidiano, schedati. In realtà, sui dipendenti stranieri che lavorano nelle aziende in Inghilterra, il ministro degli interni Rudd aveva lanciato questa proposta, poi l'ha ritirata. Ha ritirato questa stessa proposta. È più interessante la posizione del Premier May: nazionalismo tranquillo a favore della working class, dice. Certo che l'idea di Amber Rudd da due giorni, cioè quella di schedare e chiedere alle imprese il numero dei lavoratori non britannici che impiegano, buttata là, ha sollevato reazioni stizzite, ha indotto anche il ministero a fare marcia indietro. Quindi queste liste non ci saranno, però certamente sulla Brexit si discute ancora molto. Visto che siamo in fase esteri, vi voglio segnalare, come ho segnalato l'articolo di Paolo Rumiz, molto bello, sull'Africa in Italia, vi segnalo le pagine 2 e 3 di Repubblica, firma Bernardo Valli, e riguardano l'Afghanistan. Perché c'è un anniversario, forse ce lo dimentichiamo, ma proprio 15 anni fa cominciava l'attacco terroristi contro la base dei terroristi in Afghanistan, quindi dopo l'attacco delle Torri Gemelle 2001, la controffensiva occidentale. Che cosa ha portato la mobilitazione militare dell'Occidente? Beh, intanto non ha reso sicuro il paese, nonostante il costo enorme di vite, di risorse, pagato anche dall'Italia. Tutte le cifre sono snocciolate in queste pagine di Bernardo Valli. Le faccio vedere anche in diretta sulla pagina mia Facebook. Siamo in diretta video. Eccole qua. I numeri su cosa e quanto ci è costata in termini di vite, in termini di vite umane, di costi veri e propri, la missione in Afghanistan di 15 anni. Devo andare un po' di fretta, perché ci sono tante altre notizie da leggere. Beh, intanto leggerete su tutti i giornali l'assurda morte del malato di cancro, come ha denunciato il figlio di questo pensionato 74enne morto al San Camillo, senza alcun aiuto, abbandonato davanti a tutti. Il figlio ha scritto una straziante lettera e molto dura al ministro Lorenzin, abbandonato davanti a tutti nelle corsie del pronto soccorso. C'è anche il direttore sanitario Luca Casertano che si scusa, dice però è stato un errore portarlo qui, non in un hospice, visto che non siamo attrezzati per i degenti terminali. Ma questa vicenda ha veramente scioccato tutti, e la denuncia è diventata una lettera al ministro Lorenzin, e la trovate un po' su tutti i giornali. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi devo andare sulla Verità, se la trovo. Eccolo qua. La Verità, un'intervista di un'intera pagina a Massimo Merendi. E voi direte, ma chi è Massimo Merendi? È uno che di lavoro fa la chiappa a fantasmi. Cerca i fantasmi in tutta Italia. Napoleone a Udine. Ha trovato anche gli unicorni, pare, segnalati. Uno in Valtellina, uno il famoso unicorno di Misurina, racconta. Poi ci sono tre vampiri in Italia, quattro licantropi. Li cerca, eccolo qua. Professione a chiappa fantasmi. Un'intera pagina a firma Alessandro Milan. Ma chi se ne frega? Ma sono io.